Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Dall'orto presidenziale di Michelle Obama agli orti di pace. Sulle pagine del domenicale del Sole 24 Ore, Pia Pera prende in esame il rinnovato interesse per orti e giardini. Franz Kafka osservò una volta che il problema non era capire come mai l'umanità fosse stata cacciata dal paradiso terrestre, ma perché non facesse nulla per tornarci. Per capirlo, avrebbe dovuto leggere questo appassionante libro di Robert Pogue Harrison, Giardini, riflessioni sulla condizione umana, che delizia il lettore col miracolo di una parola nuova su un tema che parrebbe trito. Scopriamo così che la coltivazione di piante nei giardini, e non a scopo alimentare, ma forse rituale o magico, ha preceduto la nascita dell'agricoltura, per l'incapacità umana di sopportare dosi troppo massicce di realtà. E così, a New York, assistiamo al paradosso di giardini inventati dai senza tetto, nidi in mezzo alla tempesta di vite disancorate, espressioni elementari di creatività, ma anche di un bisogno innato di contemplazione e di quiete. Così, a grandi linee, perché a meglio indagare emerge una sconcertante scoperta. La cacciata dal giardino dell'Eden ha coinciso per l'inquieto uomo occidentale con un ritorno nella sua autentica patria, quella della cura, la heideggeriana Sorge. Dalla leggiadra giardinesca malia di regola, i nostri eroi fuggono a gambe levate, da Circe come da Alcina o da Logistilla. Nemmeno Dante riesce a concludere il viaggio nel paradiso terrestre. A malapena assaporato il dono di un libero arbitrio redento, prosegue verso un paradiso ulteriore, quello celeste, alla ricerca di estasi supreme non meno orgasmiche di un Liebes Tod. L'uomo occidentale, estremista nella sua insaziabilità, trova altrettanto insipidi, alla lunga noiosi, poveramente confinati ai sensi, il paradiso islamico, come pure i giardini deputati alla pratica della suprema virtù taoista, la non azione. Così è stato per secoli, finché una diversa inquietudine, generata forse dalla percezione di quanto sia pericolosa la dipendenza da stimoli e eccitazione continui, ha risvegliato l'interesse per il giardino, quello tradizionale dapprima. Come testimoniato dal successo del circuito realizzato da Judith Wade, raccontato nel libro Grandi giardini italiani. Milioni di visitatori ogni anno nei 74 giardini di una rete in costante crescita. Nel contempo, il concetto stesso di giardino è stato oggetto di una sorta di investimento culturale polimorfo, straripando ben oltre i parametri tradizionali. Ce lo racconta Tim Richardson in Avant Gardeners, 50 progettisti visionari per il paesaggio contemporaneo. Ed ecco il distacco dalla tradizione naturalistica del giardino per abbracciare suggestioni della pop art come del modernismo, del concettualismo come della land art. Tra tutti spicca vero e proprio capostipite il famigerato Bagel Garden, realizzato da Martha Schwarz a Cambridge, Massachusetts nel 1979, con l'intento di creare un paesaggio che parli alla gente della condizione umana, provocando un terremoto con l'utilizzo di materiali, i bagel, sorta di panini a ciambella, mai vista prima in associazione con le aiuole di bosso. Tim Richardson, firma della scanzonata Wallpaper, illustra la tendenza nel paesaggismo contemporaneo a emanciparsi dall'anima verde per lanciarsi nella speculazione artistica e filosofica, soccombendo ancora una volta a quella sorta di clorofobia, di avversione al giardino tranquillo, che a quanto pare è la nevrosi di noi occidentali. Per fortuna, Michelle Obama ha voluto segnare un cambiamento di marcia realizzando un orto a coltivazione integralmente naturale, niente pesticidi o concimi chimici, un bel mucchio di compost e tanti insetti amici, nel South Lawn della Casa Bianca. Come suoi aiutanti, ha invitato gli alunni della quinta elementare della Bancroft Elementary School, che l'orto a scuola lo tengono già dal 2001. Non ci sarà la bietola perché a Barack non piace. In compenso, peperoncini piccanti e basilico thailandese. I prodotti dell'orto serviranno per la famiglia e la tavola presidenziale, ma non solo. Spero, ha dichiarato Michelle, attraverso i bambini, di indirizzare a un'alimentazione sana le loro famiglie e la comunità. Brava Michelle, ha dato retta ad Alice Waters, creatrice dello Edible Schoolyard di Berkeley, un progetto su cui Fridtjof Capra ha scritto pagine bellissime. E in Italia? Non ce la caviamo poi così male. Da una trentina d'anni il dirigente scolastico Gianfranco Zavalloni promuove la creazione di orti nelle scuole. All'Eco Istituto di Cesena il 14 marzo scorso, in occasione di un convegno appassionato dove sono state raccolte esperienze di orti sociali, carcerari e terapeutici, ha letto il manifesto per una rete di orti di pace. Carlo Petrini, grande amico di Alice Waters, a sua volta ha inventato nel 2003 il programma degli orti in condotta, realizzandone rapidamente quasi un centinaio, uno più bello dell'altro. C'è poi Nadia Nicoletti, maestra, che coltiva da tempo l'orto in una primaria di Trento. Ha appena pubblicato un libro deliziosamente semplice, L'insalata era nell'orto. Zappetta perché le piace e perché piace tantissimo ai bambini vedere crescere le verdure, seminarle, assaggiarle, cogliere le dahlie e anche le rose, nelle migliori tradizioni orticole dell'Alto Adige. Questo libro, concepito per insegnare ai bambini, è in realtà utilissimo anche per i grandi. Dopotutto, non siamo tutti un pochino analfabeti la prima volta che ci avviciniamo al mondo, per noi nuovo, delle piante? Non abbiamo forse tutti bisogno di un semplice libro per bambini prima di affrontare più complesse avventure? Come emulare gli orti raffinati e geniali, raccontati da Paolo Peirone in Gli orti felici. Avete ascoltato la lettura di un articolo di Pia Pera dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi. Soprannominato Giudice Lumaca per avere impiegato 8 anni per depositare una sentenza, Edi Pinatto, ex giudice del Tribunale di Gela, è tornato a colpire. E questa volta la sua proverbiale lentezza ha permesso la scarcerazione di un pedofilo. Un po' come con le ciliegie, una lumaca tira l'altra. Sulla giustizia l'effetto è speculare, ancora una volta in ritardo. Il caso tutto sommato è semplice. Ci sono uno stupratore, una vittima bambino e qualche togato, forse in altre faccende affaccendato. Troppo per ricordarsi gli arretrati. Risultato? Il colpevole, o se preferite il presunto tale, libero. Da 3 giorni su di lui pesa un mandato di cattura. È evaso. Niente grimaldelli e lime, scappare da casa non è impresa improba. Peccato che, a norma di legge, avrebbe dovuto trovarsi dietro le sbarre. Da lì sarebbe stato leggermente più difficile chiudere la porta. Succede a Milano, e guarda caso, succede anche che il PM titolare dell'inchiesta sia proprio quel magistrato assurto alle cronache come il giudice più lento del mondo. Edi Pinatto, ex del Tribunale di Gela, condannato a 8 mesi di reclusione con pena sospesa e radiato lo scorso giugno dall'ordine giudiziario per aver impiegato 8 anni a scrivere le motivazioni di un processo di mafia. Grazie a lui, 7 imputati del clan Madonia tornarono anzitempo in libertà. Eppure, esercita ancora. Ha fatto ricorso in Cassazione. 10 giorni fa è stato discusso il caso, si attende la sentenza. Insomma, un ex magistrato per il CSM che ha ancora la toga sulle spalle. Lentezza su lentezza. La radiazione dopo 9 mesi non è ancora operativa. Morabit El Mostafa, 34 anni, operaio marocchino, si aggiunge ora alla lista dei beneficiati. La polizia lo aveva arrestato alla fine di gennaio. Violenza su un ragazzino di nemmeno 14 anni, l'accusa. Una storiaccia di abusi quotidiani. L'adolescente è bloccato sulla strada di ritorno da scuola, costretto a subire le attenzioni malate del magrebino, sempre più pesanti, condite da minacce e rapporti quasi completi. Fino alla denuncia, accompagnato in lacrime dalla madre in commissariato. Scattarono le manette, il PM di turno, quel giorno era a Pinatto. Fin qui tutto normale, o quasi. Il GIP decide di concedere i domiciliari al marocchino in attesa di giudizio. Se non che, nel frattempo cambia la legge, ecco il 20 febbraio, approvato il decreto che inasprisce misure cautelari e pene per i responsabili di violenza carnale. A questo punto, così come è accaduto per lo stupratore di Capodanno, anche per Morabit dovrebbero aprirsi le porte del carcere. Niente più misure alternative alla detenzione, recita la norma. Ma non accade stavolta. Edi Pinatto non spiega il perché. Non parlo con i giornalisti, la laconica risposta a chi lo cerca. Resta dunque il dubbio, non conoscendo l'iter della pratica, di chi la colpa? Di un PM cui toccava chiedere la nuova misura restrittiva o magari di un GIP troppo lento nell'applicarla? Fatto sta che ad avvisare la polizia della fuga di Morabit El Mostafà sono stati gli stessi suoi due connazionali che abitano nell'appartamento di via Merula 5, dove l'uomo si trovava agli arresti. È uscito e non è più tornato, hanno raccontato preoccupati ai poliziotti. Non volevano finire nei guai. Magari oggi qualcuno spiegherà perché Morabit abbia potuto andarsene indisturbato, con buona pace del presidente Napolitano, fra i primi a suo tempo, a chiedere la testa del giudice Lumaca. Per la cronaca, i ritardi di Pinatto, almeno stando alla sentenza del CSM, provocarono la scarcerazione di alcuni esponenti del clan dei Madonia, imputati nel processo Grande Oriente, essendo scaduti i termini di custodia cautelare. Solo nel marzo scorso, il PM aveva depositato le motivazioni della sentenza emessa nel 2000 dal Tribunale di Gela contro i 7 componenti del clan mafioso, condannati complessivamente a 90 anni di carcere. Ma ormai gli imputati erano usciti dal carcere e il giudizio di appello non aveva potuto essere celebrato in assenza delle motivazioni del primo grado. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Andrea Acquarone «L'orco fugge dai domiciliari, bufera sul PM Lumaca», dal giornale del 21 marzo.